Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tristissimo déjà vu nel paese che non riesce a dire di no alle armi. Pensate che qui ce ne sono in circolazione dai 270 ai 310 milioni di armi, e dunque drammatico il bilancio di quest'ultima sparatoria: 10 le vittime, 7 feriti, di cui 3 donne sono ricoverate in condizioni gravi. Adesso c'è anche un nome dell'assassino: Chris Harper Mercer, un ragazzo di 26 anni cresciuto in California. Il ragazzo ha iniziato ad aprire il fuoco alle 10:38 ora locale, riuscito a spostarsi da un edificio all'altro del campus, seminando terrore in uno spazio brevissimo, un minuto. L'intervento delle forze dell'ordine in tempi veramente record ha evitato che il bilancio fosse ancora più grave. Dunque le autorità adesso stanno cercando di mettere a fuoco il profilo. Dall'inizio dell'anno, come ho già detto poco fa al giornale radio, ci sono state negli Stati Uniti 40 sparatorie nelle scuole. Oggi il Corriere della Sera, commentando la notizia, ormai tutti conoscete, l'ennesima strage in una scuola americana, in un posto bellissimo, nell'Oregon, un bosco dove ci stanno i Pelle Rossa, una bellissima scuola all'avanguardia dove si formavano i ragazzi in maniera particolare. Quindi nulla a che fare con l'emarginazione, con la marginalità, con i problemi legati comunque al territorio. Anche l'assassino, per quello che se ne sa, un ragazzo molto lucido, l'aveva annunciato nei social network che avrebbe fatto questa in sua impresa, e sarebbe stato per lui un giorno epico. Era il suo giorno da eroe: andare in una scuola e cominciare a sparare e uccidere i suoi compagni, chiedendo però prima di quale religione fossero. Ora il Corriere della Sera fa tutto un elenco dei precedenti più noti, ve ne posso ricordare qualcuno: Dylan Rolfe, che nel 17 giugno 2005 ha cominciato a sparare contro i fedeli che erano riuniti in una chiesa afroamericana in Sud Carolina, ha ucciso 9 persone. Il 14 dicembre 2012 ad Atlanta, a 20 anni, entra in una scuola elementare in Connecticut e uccide 26 persone. Il 16 aprile 2007 un studente di origine sudcoreana, Cho Seung-gui, spara, ammazza e uccide 32 persone, ma ce ne sono tantissimi, figuriamoci, ci sono stati film. Il presidente Obama dice che la colpa è tutta delle armi, tutti oggi dicono che la colpa è tutta delle armi. È vero, negli Stati Uniti le armi, avere un'arma individuale è un diritto costituzionale, nessuno rinuncia, anche i liberal sono d'accordo che ogni buon cittadino americano deve avere il diritto di avere la sua Colt sempre a portata di mano. Ma oggi vorrei riportare questa problematica alle nostre latitudini. Se collazioniamo, cioè se mettiamo a confronto tutte queste stragi, vediamo, sì, è vero, è molto facile avere delle armi, e un assassino è molto favorito dal fatto, un assassino lucido, premeditato, dal fatto che ha delle armi a disposizione. Ma sono altresì dell'idea che se uno è ben determinato a uccidere, le armi le trova, se le procura. Quindi le armi è un facilitatore. Ma cosa c'è dietro? Queste stragi collettive a cosa rispondono? A quale sottile senso collettivo, che in fondo viviamo tutti noi, risponde il fatto che ogni tanto un ragazzo prenda un'arma e faccia una strage? Una strage poi in un luogo in cui sono radunati i suoi coetanei. E l'ultima circostanza additiva, non da trascurare, chiedeva di che religione fossero, in nome di quale Dio quindi li ha uccisi. Hanno chiuso le porte e noi eravamo lì nella libreria. Non eravamo sicuri di cosa stesse accadendo. Poi abbiamo sentito 3 o 4 spari, ci siamo guardati e abbiamo capito. Abbiamo capito che stava succedendo qualcosa per davvero. Abbiamo iniziato a correre e ho seguito la mia insegnante. Andavamo in direzioni diverse, tutto disorganizzato, verso il centro del campo. Mi sono girata a guardare. Se ne parlerà ancora un po' nei giornali, si dirà sarà fatto qualcosa, cambierà tutto, e aspettiamo la prossima strage. 800240024, lo stragista, l'assassino, aveva scritto nei social: sarà per me un giorno glorioso. Quale gloria si aspettava e in nome di quale Dio ha fatto questa strage? A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Melog. Cronache meridiane. In America, solo nell'ultimo anno, si sono registrate circa 250 sparatorie, tante, troppe, ogni volta le vittime. E l'elenco degli orrori è lungo. Nel 99, all'interno della Columbine High School a Denver, nel Colorado, furono uccisi 12 studenti e un insegnante per mano di due giovani armati che aprirono il fuoco su compagni e professori. Il 14 dicembre del 2012 un ventenne entra nella scuola di Sandy Hook a Newton in Connecticut e con un fucile d'assalto apre il fuoco sui presenti. A cadere sotto i proiettili questa volta sono bambini, 20 piccoli alunni e 6 adulti. Ancora in California, a Santa Barbara, nei pressi dell'università, uno studente uccide 6 persone e ne ferisce altre 13. Il killer dopo il massacro. Sarà un elenco che si andrà a allungare via via negli anni. La strage di Columbine, ricordate Michael Moore nel 2002 ci fece un film famosissimo, fece anche molto discutere, un film messo all'indice che individuava la lobby delle armi come principale responsabile di queste stragi, ma siamo sicuri che è soltanto la facilità di avere armi che determina questo fenomeno? Scrive un ascoltatore: a casa mia ho dei coltelli per cucinare comprati liberamente, ma non vado in giro ad accoltellare persone. Professor Antonio Tundo, buongiorno. Buongiorno a lei. Psichiatra, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, direttore dell'Istituto di Psicopatologia di Roma. Io oggi vorrei porre una domanda a lei per aiutare anche il nostro pubblico a riflettere. Siamo convinti che un fenomeno solamente americano, e ci sono dei punti in comune per cui un ragazzo decide, programma, progetta di fare una strage, oltre alla facilità di avere poi il fucile mitragliatore per compierla? Certo, ma io direi, pur non potendo fare un'inferenza su questo caso specifico, che dietro a questi episodi eclatanti c'è sempre una patologia psichiatrica gravissima, o delle forme di esaltazione, di eccitamento all'estremo, oppure delle forme di paranoia, di esaltazione mistica, eccetera. Quindi delle condizioni psichiatriche, perché come sentivo prima un suo ascoltatore ha detto, non è che avendo coltelli da cucina vado in giro e uccido. Ci deve essere un quid che è di natura clinica, psichiatrica, una patologia grave, che i cui segnali sfuggono. Lì poi intervengono i fattori secondari. Certo, se sono in questo stato a disposizione un'arma posso uccidere tante persone, se non ho a disposizione nulla al più darò qualche pugno o darò dei calci alle macchine per strada, farà un'aggressione ma con conseguenze estremamente meno pesanti. Quindi il cocktail esplosivo è il fatto, uno stato patologico di neurodiversità che anche grave e anche pericoloso. Certamente. Da questo punto di vista all'inizio, e che si sposa col fatto che però per mettere in atto il disegno allucinato poi a disposizione oggettini capaci di fare una strage, non a disposizione i sassi o la fionda. Esattamente, questo determina le conseguenze più gravi. Negli Stati Uniti questa cosa è più frequente, perché da noi in qualche modo i familiari ci sono vicini, se io sto male male il mio familiare mi vede, cerca di convincermi di curarmi, chiama il 118, cioè interviene. Negli Stati Uniti c'è una disgregazione a livello proprio della famiglia, e quindi non c'è qualcuno spesso che si accorga di questi segnali che ci sono in anticipo, dia l'allarme, convinca o costringa la persona a curarsi e quindi si impedisca di arrivare a quell'estremo. Quindi c'è un fattore anche ambientale da questo punto di vista. Qualcuno mi sta scrivendo: dottore, il fatto che oggi uno possa avere una sorta di riverbero epico per certi suoi gesti, il serial killer, l'assassino compie un gesto epico, ne è convinto di fare qualcosa che porterà fuori dalla dimensione umana, il fatto che sui social network possa predisporre il suo pubblico, avvertirlo, addirittura ha fatto una sorta di trailer dicendo tra poco accadrà qualcosa, addirittura avvertito, e questo mi sembra un controsenso, se abitate in questa zona è meglio che non andate a scuola. Chi avverte in quel caso, sapendo che comunque avrebbe ucciso in maniera indiscriminata? Ecco, questo sarebbe da prendere in considerazione. I contatti su Facebook di queste persone dovrebbero allarmarsi e dare l'allarme. Può essere fatto, si può avvertire la forza pubblica che ci sono segnali di questo tipo, perché ci sono questi segnali e si potrebbe intervenire in anticipo, prevenire in questo caso. Avrebbero fatto bene gli amici, davanti a messaggi di questo tipo, dire alle autorità: guardate, c'è questa condizione. Quindi ci sta facendo riflettere, professore, sul fatto che sì, è giusto dire, siamo tutti d'accordo che la distribuzione indiscriminata di armi pericolose è un fenomeno senz'altro da arginare, ma esiste anche un fattore sociale di cui nessuno parla, però che c'è una sorta di superficialità, leggerezza, indifferenza di fronte a psicopatologie che comunque possono rappresentare un pericolo sociale, e nessuno più di me è convinto che in realtà non desse un approccio punitivo, ma un approccio almeno di tutela. Secondo lei perché uccidono proprio i loro coetanei? Si rivolgono a persone come loro, vanno a fare stragi di ragazzi, sono più o meno ragazzi che uccidono altri ragazzi. Questo sì, non è strano, ma perché dipende dal tipo di pensiero patologico che c'è dietro, e quindi, a parte che uccidere ragazzi fa sempre più impatto che non uccidere persone più adulte, si uccide insomma chi c'è più vicino, ma soprattutto perché questo poi ci consente a queste persone di raggiungere l'obiettivo, la notorietà cercata in maniera patologica. Poi forse si aprirebbe una riflessione sull'importanza dell'essere famosi come proprio fenomeno sociale. Da questo punto di vista ho trovato proprio sui giornali una notizia che lo sceriffo non voleva dare il nome della persona proprio per non fargli raggiungere l'obiettivo. Questo sarebbe stata un'idea molto utile, perché in qualche modo si taglia un po' la motivazione di raggiungere la notorietà, quindi l'emulazione successiva. Anche perché in effetti non c'è molta differenza fra il folle terrorista che si fa saltare in aria per raggiungere il paradiso delle 10.000 vergini o quante sono, non lo so. Questo alla fine sa che il suo gesto terminerà con la sua morte, ma per lui è una sorta di sacrificio eroico per passare in un Olimpo di notorietà, qualcosa del genere. Sente d'accordo, perché nella loro stato di alterazione raggiungere la notorietà, essere in tutti i giornali del mondo è soddisfacente, è raggiungere la motivazione della vita, ma in questa condizione di patologia sempre. Sentiamo qualche ascoltatore assieme al professor Antonio Tundo. Pino, buongiorno. Buongiorno. Il mito dell'eroe negativo, le armi c'entrano come facilitatore, ma è la cultura americana dei giovani, secondo me. Io sono stato qualche volta negli Stati Uniti e c'è questo meccanismo, danno la colpa alle lobby delle armi perché forse non vogliono metterlo in discussione. Non si mette in discussione il problema sociale, ecco. Temo proprio di sì, perché facevo un esempio alla reception, io vivo in Toscana, sono un cacciatore, siamo pieni di armi, però queste cose non succedono. Cioè, evidentemente i loro giovani hanno dei meccanismi di eroi negativi, della cultura americana. Cioè, i nostri poliziotti non sparano a bambini. Beh, non è che bisogna andare a cercare in una particolare letteratura epica, basta guardare i videogame, c'è un eroe sparatutto che fa stragi, se si è il protagonista in un videogame si ha la soggettiva del proprio fucile mitragliatore e si va avanti nei livelli del gioco per quante persone si massacrano. È divertente, non dico che non sono un punitivo che dice no ai videogame, però è chiaro che è lo strumento emotivo su cui si formano è quello, esattamente quello, il meccanismo del livello, vai avanti di livello più persone uccidi. Marco, buongiorno. Buongiorno, salve. Volevo dire che secondo me le armi non c'entrano assolutamente niente. No, qualcosa perché c'entrano, perché è una cosa dire voglio ammazzare una persona e trovare il fucile che lo vendono al supermercato. Ma le persone si uccidono, basta prendere un'auto e entrare, io sono di Firenze, si entra a Firenze a 100 all'ora e si fa una strage perché ci sono le persone. Sì, capisco, ma se io adesso scendo sotto... Se uno vuole fare una strage, la fa con qualsiasi mezzo. Su questo sono d'accordo, ma capisca la differenza. Io scendo sotto, c'è un fruttivendolo qua sotto, posso comprare cetrioli, mele marce, quello che voglio. Se trovo sotto invece una rastrelliera di Kalashnikov e li posso comprare tranquillamente, mi viene più facile. Questo bisogna un po' darne atto di questo, che venga più facile è vero, ma come ha detto il professore si innesta già in un quadro psichiatrico problematico, molto problematico. Paolo. Buongiorno. Sì, come dicevo, cioè, le armi, l'abbondanza delle armi c'entrano relativamente, perché se vediamo l'ISIS si fa esplodere o taglia le gole. Una volta in Sicilia c'era il delitto d'onore. Qua a nord, parliamo anche del nord, un mio carissimo amico conoscente si è buttato dal 10° piano. L'anno successivo si è buttata sua figlia dal suo stesso piano. Cioè, vabbè, quella è una tradizione di famiglia, evidentemente. Il gene della follia, perché Certo, in quel senso. Ci sono periodi dove ci sono vengono a manifestarsi maggiormente e sono i periodi con i cambi di stagione, caldo e freddo, se possiamo notare che ci sono si scatenano di più queste cose. Aspetta, sentiamo professor Antonio Tundo, non è una trasmissione clinica questa, però no. L'ascoltatore attribuisce anche a certi periodi di passaggio, è vero? Chiede allora, presto, diciamo sa che... come questo periodo è particolarmente problematico da attraversare. Diciamo che l'influenza soprattutto della luce, il fenomeno primario è la luce, è forte sull'equilibrio emotivo e quindi con la luce intensa dell'estate sono più frequenti, sono più facili questi stati di esaltazione, di aggressività, di deliri, mentre la depressione, come diceva l'ascoltatore, è più facile nei periodi intermedi, i cambi di stagione, e il suicidio che nominava ha dei picchi in genere in maggio e in ottobre, da sempre storicamente, dall'Ottocento, da quando ci sono le prime statistiche, quindi c'è una netta influenza, ma sempre su una predisposizione. E se posso dire una cosa, l'uso di sostanze. L'uso di sostanze ha una capacità fortemente amplificatoria e quindi se ho una predisposizione minima alla statentizza, se ho già disturbo in atto, me lo aggrava potentemente. Sostanze lei intende, diciamo, le solite abuso di pasticche, pillole, no, farmaci? No, dalle sostanze, dalla cannabis alla cocaina, alle anfetamine, alle pillolette varie. Quindi il cocktail diventa ancora più complicato. Facilità di avere armi, stato oggettivamente patologico e in più, diciamo, dei coadiuvanti, degli esaltatori della patologia che sono le sostanze. Non controllo sociale, che è la cosa che gli americani non vogliono ammettere, che in realtà non c'è controllo sociale su questo. Può accadere qualcosa del genere. Ci sentiamo intanto fra qualche istante, che dobbiamo mandare una pausa. Ringrazio il professor Antonio Tundo. Ci abbiamo al telefono un ascoltatore che è un consulente balistico in tribunale, che deve dirci una cosa molto interessante e molto illuminante che va a valorare la teoria che stiamo cercando di confrontare questa mattina. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Che Dio benedica i ricordi di coloro che sono stati uccisi oggi. È un Obama visibilmente commosso, quello che compare in TV per parlare dell'ennesima strage in un college americano. Nel messaggio alla nazione pronunciato quando in Italia era ormai notte, il presidente degli Stati Uniti ha chiesto aiuto per cambiare le leggi sulle armi. In America c'è più o meno una pistola o un fucile ogni uomo, donna o bambino. Le preghiere non bastano più, ha continuato Obama, che per la 15ª volta durante il suo mandato è intervenuto subito dopo un omicidio di massa. 800-24-0024, cerchiamo di porci alcune domande con gli strumenti che abbiamo a disposizione di analisi, senza pretendere di dare risposte risolutive o trovare la chiave di soluzione dello stragismo giovanile negli Stati Uniti. Come avevo annunciato, abbiamo al telefono Alberto. Alberto, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Lei ci dà un punto di vista originale che oggi non ho visto comunque nei giornali. Ce lo enunci. Sì, spesso è una cosa che viene quasi sempre trascurata. E queste lei chi è innanzitutto? Ci dica il suo lavoro. Allora, io faccio il consulente tecnico balistico sia di parte sia per il tribunale quando ci sono sparatori, incidenti di caccia o comunque eventi che coinvolgono armi da fuoco. E quindi seguo anche tutte le cose relative alle armi da fuoco che succedono nel mondo, notizie, cose del genere. Quindi è il suo campo di lavoro. Esatto, precisamente. E una cosa che quasi sempre viene trascurata è il fatto che queste stragi succedono quasi sempre in luoghi dove è assolutamente proibito portare le armi, anche da persone che ne hanno la licenza per autodifesa, per qualsiasi altra cosa. Le scuole, i cinema, tutti i luoghi che sono per così detti considerati gun free in America, comunque liberi di armi per la sicurezza dei cittadini. Logicamente il folle che vuole compiere il massimo danno possibile con il minimo rischio per lui sceglie un posto dove è sicuro, quasi che nessuno sia armato. Non va di sicuro. Ho visto che qualche stato però dopo la strage nella chiesa hanno proposto di mettere le armi nelle chiese per difendersi. Ma guardi, lì il discorso è che non si può imporre di mettere delle armi a chi ne ha paura o non le vuole usare. E sta di fatto che, portando, diciamo, andando su questa deriva, da quando hanno permesso e hanno dato ai piloti delle linee aeree americane la possibilità di essere armati in cabina, penso che chiunque voglia dirottare un aereo ci pensa molte più volte prima di andare a cercare di entrare in una cabina di pilotaggio e dirottarla. Ma quindi la soluzione, per paradosso, sarebbe di mettere delle rastrelliere di fucile nei confessionali o negli armadietti delle scuole? Questa è una bella battuta. No, la soluzione, io non ho la soluzione. La soluzione sarebbe sicuramente, un grosso passo avanti sarebbe che gli Stati Uniti facessero un bello screening di salute mentale a chiunque voglia acquistare un'arma, come succede normalmente in Italia. In Italia teniamo presente che chiunque, anche un cacciatore che ha delle armi a casa, non si può permettere neppure di essere sorpreso alla guida con il tasso alcolemico leggermente più alto, perché automaticamente gli viene ritirato il permesso e la licenza, certo, di trasporto. È un po' difficile, esatto. Quando uno un fucile lo va a comprare al supermercato, come compra... Non è proprio così, sì, assolutamente, in alcuni stati... Io ho visto in alcuni stati le rastrelliere nei grandi drugstore dove uno poteva comprarsele. Sì, però non è che uno lo prende, lo mette sul carrello e va via, è in esposizione, ma sulle armi lunghe, sui fucili, spesso e volentieri, in alcuni stati, io non saprei dirle esattamente quali, è molto più semplice. Mi pare fosse in Louisiana, mi sembra di ricordare. È possibile, poi le leggi sono cambiate notevolmente. Nello stato di New York è praticamente quasi impossibile acquistare un'arma, soprattutto un'arma corta come una pistola o qualcosa del genere. In Florida le armi sono tranquillamente esposte, però comunque devi dimostrare che hai, diciamo, che non hai precedenti penali. Però in Florida a chi dimostra tutto quello che viene richiesto, con praticamente la stessa quasi richiesta di documenti che viene fatta in Italia, che quindi viene dimostrato che tu sei una persona sana di mente per quanto possibile in quel momento che ti viene lasciata la licenza, uno può addirittura ottenere la licenza per le armi full auto, quindi che sparano a raffica, per questione. Questo è, per dire, l'estremo massimo. Che comunque sono facilmente modificabili, lei me lo insegnerà, se uno volesse proprio avere un'arma che spara a raffica, se la compra poi se la modifica, perché l'ho letto in qualche cronaca comunque, che molti sono poi bravi a renderla efficiente per fare le stragi. Sentiamo un attimo, intanto la ringrazio, la saluto, Vincenzo Mastronardi, psichiatra e criminologo, titolare della cattedra di psicopatologia forense presso prima facoltà di medicina all'Università di Roma Sapienza, ha curato il dizionario criminale italiano, edizione Newton Compton. Professor Mastronardi, il suo punto di vista è soltanto un problema di facilità di acquisire armi o ci sono altri problemi dietro? Magari fosse soltanto un fatto di facilità ad acquistare le armi. Buongiorno a tutti innanzitutto. Qui abbiamo una miscela esplosiva che è data dal trittico, caratterizzato da una bassa soglia di tolleranza allo stress per la singola persona, quindi è fatto personologico, bassa soglia di tolleranza allo stress, una depressione particolarmente accentuata, ma il terzo elemento particolarmente nocivo da star particolarmente attenti è il narcisismo, un narcisismo estremo, è chiamata la sindrome di Sansone, me ne sono occupato con i colleghi americani, per cui cada Sansone con tutti i filistei, questa non me la dovevano fare, ecco che tirano fuori le armi che peraltro è facile comprare, e quindi anche se dovessimo effettuare uno screening al momento dell'acquisto dell'arma, potremmo sì evincere una malattia mentale, ma non possiamo evincere un eccetto se si fanno determinati test particolari, ma non potremmo, cioè, mai, diciamo, lo sbrocco non è mai prevedibile, uno non sa se una persona può sbroccare. Purtroppo sì. Diceva bene lei, noi non all'inizio non stiamo qui a suggerire soluzioni, ipotesi di soluzioni assolutamente sì. Io le dico subito, ho ventilato un test che si potrebbe attuare, ma non è stato mai attuato, ed è quello della compatibilità minima, media, alta o massima con l'acting out, cioè con l'azione all'esterno. Questo potrebbe essere fatto, ma in quale momento storico? Ma come funziona questo test? Come funziona? È un test fatto di semplici domande. Ma quanto tempo richiede, diciamo? Tutto. Quanto tempo richiede? No, facilissimo, sono solo 40 domande, solo, quindi non è difficile. Cioè, solo semplifico, la persona che vende le armi dovrebbe avere a disposizione, diciamo, il protocollo di questo test, farlo riempire le caselle in base al numero di risposte, dice no, guarda, il test mi dice che tu forse è meglio che fai un altro magari giro. Magari fosse così semplice, perché chi è incentivato a vendere le armi a questo punto non lo utilizzerà mai. In Italia è un po' diverso, in Italia serve quindi il porto d'armi e se a questo punto c'è una revisione del porto d'armi stesso, a questo punto ci sono studi universitari, voglio dire ben precisi accertamenti universitari che devono essere fatti presso la clinica neuropsichiatrica, presso la clinica neurologica e quant'altro in Italia. Altrove no, ecco perché in Italia non ci sono molti family classic mass murder, cioè assassini di massa classici, quali quelle nelle scuole, nei blockbuster, eccetera. In Italia abbiamo i family mass murder, cioè gli assassini di massa di famiglia. Meno male, non tanti. Non tanti, ma ogni giorno se ne vede qualcuno. In Italia si spara la moglie piuttosto che andare a organizzarsi una classe. Fermo un attimo, professor Mastronardi, sentiamo un ascoltatore che c'ha secondo me una domanda illuminante. Claudio, buongiorno. Buongiorno, io ho avuto un'esperienza mia personale da ragazzo, cioè da giovane, quando ho fatto il militare ero un carabiniere e le garantisco che i primi tempi in cui io avevo possibilità di andare in giro anche in borghese con la pistola, con l'arma d'ordinanza, sì, con l'arma d'ordinanza, perché noi eravamo quasi tenuti ad averla sempre, a 19 anni ci si sente un pochino impotenti sapendo di essere armati. Poi io immagino che, come è successo a me, che dopo un po' questa arma, oltre che a non fare più nessun effetto, dava persino fastidio, perché è un ingombro non indifferente. Una 92S al suo peso. No, io avevo quella più piccola, ero fortunato. Ah, tanti anni fa, ormai ho 52 anni, quindi sono passati tanti anni. Però poi ho perso questa, diciamo, questa così onnipotenza, nel senso la lasciavo a casa smontata come da regolamento. Professor Mastronardi, è vero che avere un'arma in tasca rende ogni uomo un superuomo, almeno nell'immaginazione? C'è il rischio che ciò possa avvenire, non a tutti, per fortuna, non a tutti, ma c'è il rischio che questo possa avvenire. Lei pensi che io per parecchio tempo ho fatto da consulente per l'arma dei carabinieri e per fortuna ci siamo resi conto che non c'era questo delirio di onnipotenza o questa sensazione di onnipotenza. Questo ci conforta, ci consola. Anche perché un carabiniere sa che quell'arma gli serve se trova davanti un altro con un'altra arma, non è che la porta in giro per gioco, esatto, è un po' diversa. Esatto. È il cittadino con l'arma in tasca, ma si sente che può fare qualunque cosa. Fermo un attimo soltanto, una pausa velocissima, poi riprendiamo con il professor Mastronardi. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile, vi presenta Melog, cronache meridiane. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi sono deciso di chiamare perché mi sembrano le motivazioni con cui vengono giustificate, vengono motivate queste azioni, suicidio, omicidio di massa, siano un pochino superficiali, nel senso che il fatto del pazzo, del folle o della meteorologia o della situazione di voler essere messo sui giornali mi sembra troppo elementare e dovrebbe essere invece analizzato da un punto di vista sociale e generale, di culturale. Il problema è che integri la nostra lacuna, Fabrizio, sono qua per ascoltare. Il pilota tedesco, facciamo conto che si è sì. è fatto schiantato con l'aereo, sì. O tutte quante, o in generale nel mondo del business il livello di competizione ormai internazionale, nazionale, all'interno delle aziende sta diventando indubbiamente di livello diciamo, si è alzata la soglia per cui certi livelli di prima di nervosismo, cioè questo era un ragazzo vive in mezzo a un bosco, paranoia, un posto bellissimo, quindi non faceva una mazza tutto il giorno, non è che avesse uno stress, no, da manager. Io ho guardato il sito Motonete di origine libanese. Ora la maggior parte, se lei analizza, questo è te, no, vedi, già se dato... lei analizza tutti quanti diciamo così gli ultimi omicidi di massa fatti in America, quasi tutti quanti sono immigrati, quasi tutti quanti hanno avuto grosse difficoltà di integrazione e quasi tutti quanti quindi si trovano a dover avere un livello di competizione all'interno dei college, all'interno con i loro pari, eccetera, che crea chiaramente un... No, lei invece, guardi Fabrizio, ci sta dando un altro aspetto che lo integra. Io non è che ho delle posizioni assolute, cioè avessi delle posizioni dovrei scrivere il Kama Sutra della radio, perché ogni giorno faccio un argomento diverso da 30 anni. Lei sta dicendo però una cosa interessante: sono persone che lei ha notato con il suo punto di vista, la sua angolazione, che potrebbero aver avuto dei problemi di inserimento nella realtà sociale dei loro coetanei, quindi bullizzati, emarginati, messi da parte, o perlomeno si sentono diversi, inferiori, e da qui nasce la reazione. Ho sintetizzato bene il suo pensiero? Dai diari loro, ma dai diari anche nostri italiani, delle persone che si trovano in situazioni analoghe. Io le posso assicurare, io ho lavorato 25 anni in IBM, poi ho fatto l'imprenditore, eccetera, che il livello di... non c'è molta differenza con molte persone, molti giovani che entrano nel mondo del lavoro in una multinazionale e si trovano a avere livelli di stress che sono assolutamente incompatibili. Questo lo confermo, il termine bullismo, che è semplificativo, esiste anche molto nel mondo del lavoro, cioè ti considerano uno sfigato se non raggiungi quelli che sono gli obiettivi, se non ottieni i bonus, se non arrivi a portare con i denti quello che gli altri non riescono a portare. Esattamente la stessa cosa. Sentiamo il professor Vincenzo Mastronardi, che ricordo che è un criminologo alla cattedra di psicopatologia alla Sapienza di Roma. Questa osservazione del nostro ascoltatore la trova congrua, professor Mastronardi? Che ci possono essere anche... Assolutamente sì. Non invochiamo cambiamenti di stagione o di clima. No, ma quello era semplicemente detto. Devo spiegarlo, sennò sembra che facciamo delle banalità. Un ascoltatore aveva detto se poteva esserci un momento particolare, lo psichiatra ha detto in effetti una persona depressa soffre dei cambiamenti di clima, non è detto sia questo il caso, assolutamente, rispondeva l'ascoltatore. Lo condivido, perché è chiaro che a valle ci sono sempre, poi dopo quello che dicevo io, no, la bassa soglia di tolleranza allo stress, quando c'è la bassa soglia di tolleranza allo stress? Anche per un non nulla, anche se c'è qualcuno che non ti sorride, se c'è qualcuno che abitualmente anche con l'atteggiamento mimico gestuale non ti accetta in quella scuola, in quella classe, beh, è chiaro che la bassa soglia di tolleranza allo stress si fonda con la depressione. Il narcisismo poi dopo, che è ovviamente qualcosa di particolarmente da tenere particolarmente presente, perché se fosse solo depressione non avremmo questa fenomenologia, se fosse solo bassa soglia di tolleranza allo stress non avremmo la stessa cosa, e il narcisismo che fa scattare questa molla di reazione. E qui diciamo a una parte anche diciamo il grande consenso che uno può crearsi in un social network, in fondo faticando poco, scrivendo frasi, mettendo foto, simulando magari una personalità che non ha. Questo no, perché mettiamo tutte assieme, io quello che ho detto in partenza è un grande cocktail, cerchiamo di vedere gli elementi da cui è composto questo cocktail, poi non dico quale sia quello determinante, ma c'è anche questo. Assolutamente, non possiamo dimenticare che l'accettazione da parte del sociale per tutti quanti noi esseri umani è importante, e quindi quella necessità di autostima e di autoefficacia nel mondo, cioè quanto mi considerano in questo mondo, è una meta che tutti quanti noi rincorriamo. Ovviamente se non è soddisfatto, se non riusciamo a soddisfarla, l'autostima e l'autoefficacia, beh, a questo punto qui scatta il problema della struttura di personalità, che è particolare, e quindi a questo punto, altrimenti avremmo avuto la distruzione di tutta la razza umana già da diverso. Una cosa, Mastronardi, l'aspetto religioso, io l'ho detto all'inizio, questo ragazzo domandava di che religione sei, non so bene quale sia la sua religione, a chi appartenga, quale sia la tua, però che ci sia anche una sorta di circostanza additiva di compiere qualcosa in nome comunque di un Dio, perché se uccidi chiedendo la religione già discrimini, qualcuno si salva e qualcuno no in ragione del suo credo religioso. C'è questa circostanza? È un pretesto. Se non era la religione, sarebbe stata la necessità di sentire che gli altri condividevano altri punti. Come di il lupo e l'agnello, la stessa cosa. Esatto. Quindi a questo punto non è un fatto, potrebbe sembrare se c'entri la religione, ma solo a valle, perché a monte c'è questo disturbo di personalità, disturbo narcisistico di personalità, quindi con un narcisismo cosiddetto maligno. Il fenomeno dei mass murder, dei classic mass murder, quindi blockbuster, scuole, McDonald's, eccetera, in America si è sviluppato a motivazioni sociali sicuramente, le armi sicuramente, ma inevitabilmente personologiche, è lì a questo punto c'è qualcosa da fare. Che cosa? Ecco, io mi concentrerei su questo punto, ovvero sia i test attitudinali. Ecco, sarebbe possibile in America farli? Obama ci sta lavorando, ma quanto sarà possibile? Perché questo punto mi sembra comunque un punto di chiarezza abbiamo avuto, non l'indiscriminata avversione o accettazione del fatto che tutti abbiano un'arma. Ha un'arma, perlomeno diteci se quello che, a cui diamo l'arma in mano, ha la testa a posto per poterla gestire. Grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti, grazie al professor Mastronardi. A lunedì.